Sì, come G3? Tore? Tore, ci sì. Tore? A volte sparisci qua. Sono un magone. Ah? Che sparisco perché sono un magone. Ah, lo comprendo. Stai uscendo, E adesso? Tutta la scarica. Vola. E adesso? Sempre la scarica, sì. E anche qua c'è tutto scaricato, sì. Dai, vi saluto che do a mangiare il cane. Ci sentiamo, ragazzi, statemi bene. Buon proseguo a tutti, cambio. Ciao, ciao. Mangiati il cane, mangiati. Cazzo è proprio grosso, aiuta le mani a me. Ciao Fra, stammi bene. Ciao To, ciao. Mio genero abita lì vicino a te. Oh, ah, vuol dire che lo conosco. Già ti conosce lui, sì. Figlio di collaborare Maria Angelo Farinelli, eh. Ah sì, che lo conosco. Mariolino, vabbò che è qua. Ma detto già lo conosco anch'io. Va bene, dai, ci sentiamo ragazzi. Buon fine maggio a tutti. A domani se coincide, se no troppo giù di mesi, Dorra. Ciao. Addirittura. No, non sto piantando. Ho staccato tutto, a Sassi ho staccato tutto, tutte le tue scatole. Qua ho messo questo, ma no. No, non si intende guerra, ma non si intende nulla, una radio bella esteticamente, ma oramai la sua funzione l'ha persa, una radio di 40 anni. Ehi, ma già sta funzionando bene, già sta funzionando bene, c'è una ghianda. Sì, è una 220, valvole finali e bim bum bam, però tu immaginati che è il più grande, no, uno dei più grandi, è il più grande baracchino al mondo. E mano un cassone di goccio, un cofano di macchina. Che te ne pari? No, è uno dei suoi primi bruffi. È una radio americana, capito, una radio americana, DAC si chiama, DAC Mark 10, una radio americana, sembra più che una radio, il Tinoppo se la ricorda, più che una radio sembra un amplificatore da 2 kW. Ho capito, ci assomiglia comunque. L'ho conosciuto. È molto bella, praticamente è bella, nuova, però non la stavo usando, capito? E quindi sicuramente è un po' di ossido o qualcosa. L'ho messa qua con un'antenna piccolina, perché antenne grandi non mi piace più. Lascio tutto a Sassari e poi appena arriva il tempo buono me ne può attaccare tutto. Prepara dei muscoli, amiche, verrà a masciare su Dalariccio. Comunque adesso vedi quasi stabile, non è più in negativo, stavo andando perlomeno, io ti guardo da questo mister, volevo attaccare l'altro, ma troppo più in mezzo alle scarpe, non avevo voglia di fare movimentazioni strane. Perché sicuramente l'ho accesa, mi sono messo a parlare, questo ha bisogno un po' di scaldare le valvole, capito? E quindi non era stabile, oddì. Non era stabile, ma c'ha, guarda che c'ha, questa c'ha, adesso io sono a 4 watt, c'ha 2 potenze. Allora, interruttore a dare tutto, aspetta, allora questa è la prima potenza e questa è la seconda potenza, salito diciamo che la prima è migliore, la seconda magari spinge un pochino di più, però va in picchi positivi, vai da 0 a quasi 9, però non ho, come radio sparisce. Oh, se ne va la radio, allora se metto la potenza bassa, non c'è mai che bianca e farlo. Rimettila come la prima. Così è come la prima, sì. Rifai il passaggio. Vabbè, così è come la prima, praticamente sono 4 watt e poi c'è 15 watt. Fai da 4 a 15, prova. Da 4 a 15, in normale, già adesso stesso. Vediamo un pochino, ora. Va. No, fai il passaggio da 4 watt a 15 watt, ora stai facendo per gli... che ti posso dare un sondaggio di 5 perché arrivi così e vai fischiando a 3. Allora, così la potenza praticamente quella normale, dai, a 4 watt, e così tiro su il carrier, e così invece è a 15 watt, 18 watt. Però va in negativo a partire di me, poi può essere anche il mio smitter, la radio è anche così aumenta comunque. Qualcosa aumenta, ma non è che sia molto, eh. Fatti dare conferma. Paolo, anche la te adesso ho rimesso a potenza bassa. Così va benissimo, ma a me prova a aumentare. Allora, così la potenza bassa, questa è la potenza da 4 watt, 2, 3 watt e mezzo, e questa qua invece è la potenza alta. Oscilla parecchio, oscilla. Aumenta però, oscilla parecchio. Ciao, sono già appigliato, eh. Ehi, ciao, siamo alla città, un smetto grande, modulatore, vabbè, lo smetter grande, e poi c'è la tensione delle valvole, la nodica delle valvole in uscita, nell'assorbimento. Sto vedendo, non arrivi a 5 watt i modulenti, quindi saranno i 3-4 watt. E poi l'antenna è piccolina, capito, una Grand Prix appoggiata lì con un pezzo di tubo da un paio di metri alla, al poggioletto che c'ho dove ci sono io. Va bene, dai, che mi sistemo i cani. Ciao Tore, saluta anche mio Geno, ciao Bacchisio, ciao Antonello, Tino e chiunque fosse in ascolto. Buon fine di primo maggio a tutti e ci sentiamo alle prossime. Riprendi tu, Tore. Ok, ciao Fra, fammi bene. Riprende Bacchi, buonasera. Buonasera, buonasera Tore. Buonasera Claudio, sono di casa, sentiamo le prossime. Fatti sentire ogni tanto, fare le servizi alla radio non è importante, basta che funzioni. Ehi Bacchi, sono in fase di trasferimento, quindi piano piano, ma intanto guarda ti dico che qua non metto niente, non spreco né tempo, né energie, né mi bongo a far nulla. Momentaneamente lascio tutto a Sassari e poi quest'estate si vedrà se di nuovo tutto, le antenne e tanto questo. Ciao signori, riprendetela, grazie per avermi fatto entrare e grazie delle due chiacchiere, così ha giù provato blu che sta radio, vai. Ciao a tutti, riprendi Tino. Eia, ciao qua, ciao, poi voglio vedere cosa fare da pensionato, ciao anche a te Bacchi, ben entrato. Hai capito, cosa fare da pensionato poi senza radio, dei ricchi, dei giornali, con la televisione e poi ti cane, ho capito, anzi ti mangi il cane. Ciao, crack, sentiamo, stare bene, un abbraccio a te famiglia. Ciao, sì, grazie altrettanto. No, già mi impegna, Anna, non ti preoccupare. Già mi impegna. Già ti voglio vedere, già tutto mi prende in faccia. Ciao. Ui, quello sta fermando, già ti voglio vedere. Riprendi, Bacchisio. Oh, la zappa in mano Claudio. Claudio ci mette col giornale in mano, la sua zappa, L'intenzione ci va a riposare adesso. Ha lavorato abbastanza. È solo un po' di riposo. Ok. Cosa c'è perché non sei fermo? Ti metti a cosa l'ultimo filo che mi suga. Ehi Pacchino, mi sono fermato perché stavo andando a casa a mangiare che ho tempo diciamo non contatto ma non so che fuggio devo fare anch'io perché sto andando a casa quindi poi sempre mangiare una cosa e vado nuovamente a lavorare, capito? Ed è una cosa veloce. Infatti allora un filo di tavolo e un calzantato e via al lavoro, non da prendere. Ah, tutore! Però hai visto che già non manco mai a salutarti quando ti vedo. E mi fa sempre piacere quando tu saluti, io dovevo arrivare, mi sembrava non mi sembrava, poi dopo che è passato, sono io da un filo di raga. Andare, va bene, è bene, bisogna salutare sempre. Tore, riprendi. Riprendo. E allora, signor Bacchi, il suo coso può stare a posto, dirai. Ma come dorme, se la posso, se non mi posso. Se non mi ho sentito, domani voglio ricomprare pure. No, deve togliere il coppetto e dargli una soffiata. Sicuramente deve essere bloccato dalla polvere. Ah, no, fatto, non penso l'abbia avuto. Poi è quella radio mia, sai che cazzo ha visto, non ha mai visto cazzo ha visto, non faccio vedere cazzo ha visto. A vecchiaia, ho la fumare da tutto. Claudio. Esagerato. Esagerato che sì. Io pensavo da 95 che sono venuto, non mi sa manco sto. Se l'ho fatto vedere adesso, sto tutto a vento, non so chi sa, non lo so, sì, no. Eh beh. Che da poco fa passi, ciao, altrui. Oh, ciao, allora, io non lo sapevo che cosa sei, non ho saltato prima. Avanti, ancora. E poi, sì, niente, non c'è problema. Avanti, Tore. Antonella, già lo sappiamo che vi siete da un pezzo. Già lo credo. siamo e non è portato mare a mangiare, ho visto. Cosa devo mangiare adesso? A compagnia la sua? No, a compagnia le mie nipote, e più per arrugare lui. Non è portato il cane sul paese? Purtroppo devo farlo. Allora, per la camminata, se piove c'è il filmato e non si fanno, allora fai. È brutto piacere con la pioggia, no? Vabbè, se no, ho pazienza. Se no, piacenza, avanti le sorelle. Sì, piano piano dai che fanno le cose. Non è importante quello. Uiuia. L'importante è. Fanno tutti i giorni. Con la vita che lo dice, cioè i trimmer che sono i polvere. Coppa, coppa, adesso spagatina il piso CRC, quello volatile, e pulisci con i trimmer. Questo perché la parecchia quando non si usa, mi rompe le palle, rompe sempre. Quando sei per la fare tempo con un zig, un apparato fa tutto, fa tutto di più, sì. Perché il coso del 2009, a volte non accende, a volte accende, dipende da come gli vengono le istruzioni anche alla quell'apparecchio. Tutto lì, bisogna accendere tutti i giorni gli apparati, tutti i giorni, se vuoi che funzionano bene, se no sei gustito. Dicendo Bacchi. Se non vuoi parla con uno. No, c'ho il tablet davanti che sto guardando una cosa. Non mi stai guardando. Questo focaccione sono io. Bacchi, ti rivolgo. Avanti Luca. E avanti Luca, io sono un po' arrabbiato, perché ho dato un computer, funzionava benissimo. Adesso è come se ci sia la scheda in corto. Cioè, una settimana, io gli ho venuto come visto e piaciuto. E va attivato il computer, ma vuol dire andare in due. A volte capita. A volte capita, Luca. Come a volte capita che vengono la parecchia, funziona benissimo, dopodiché magari lui non riesce a usare, ti dà qualcosa e poi ti dice che è colpa tua. Quindi, via. Sono cose purtroppo che capitano. Cosa strana? Non lo so. Ciao Luca, buonasera. Non ti avvirare mai. Non ti avvirare. Ciao Bacchi, vabbè, ma non va bene. Io ti stivo una cosa che non va bene, mi sei piaciuto, non è che... Vabbè, vuol dire che la prossima volta ci pensiamo due volte. Tutto oscillato. E di dopo? Il microfono per appropriato. Esce, esce da dentro, appena tu mi dai. Te lo so. Ecco, l'ho aperto, hai che non funzionava, l'ho aperto. Ho tutto oscillato, per forza non funzionava. Un casotto. Ciao Mannera, camminendi e pulisci tutto quanto, pulisci. Pulisco, ho pulisco. Pulisci. Non ho detto niente, è stato per l'amore, non ho detto niente. È indaffarato, Andiamo a vedere. Ciao, sono Luca, siamo qui. Hai qualche saldatore che puoi salvare di miniatura? Sì, c'ho la parte dell'aria calda, sì. Allora io come? Questo qui, quanto è più bollino? I componenti sono in natura. Quando vuoi, ma te lo sto sempre in zona, eh. Ma per la neota devi saldare, o devi sostituire il petto? No, devi sostituire il petto, è un petto in natura. Quanti piedi ne è? Ah, non lo so, no. Ho trovato mio cugino, se lo faceva riparare lui, cioè a Cuneo, questo qui dice no, non posso sapere la fine di altri aprile cosa di fare. Bisogna vedere se è quello il danno, siamo sicuri che è solo quello. Penso che è quello il danno. Ma hai anche l'integrato? Cosa mi ha detto? Siccome siamo usciti in ricerca, riceve con le cuffie, questa cuffia non si sente più. E io ho fatto un dispetto che ci ha preso, salda volentamente, quando prendo le batterie dentro, poi lo collego all'alimentatore, scotta. Sì, sì, ho capito, vabbè, comunque riceve, non trasmette. Quando vuoi, non c'è problema. Ci vediamo, dai, mi fa vedere il lavoro che c'è da fare. Posso vedere anche al dottor Salamone che dice quale senso bisogna salvare. Non ti stavo seguendo, ha detto che quando si dice le cuffie non senti, invece quando le togli le senti. No, senza cuffie non si sente niente, con le cuffie si sente passo passo. Però fa un difetto, cioè scalda lentamente. Allora, ma che apparecchio è? Un Inton di... Ah, è Lincoln, c'ha l'integrato, c'ha. Però se senti con le cuffie basso basso, è tutto da controllare, potrebbe essere una cazzata, una fatta saldatura all'integrato. Questo qui non è più mai così, ci vuole un saldatore ad aria, come ho detto, molto distante. E questo qui non c'ha. Neanche io ce l'ho. Non so neanche io, non se lo posso... Se no succede come quella è, quel V e U. Non puoi farlo con saldatore normale, è un casino. Ti rimane il pezzo in mano, ti rimane. Anche se lo fai... con un ago, come ho fatto io, non le cavi più lo stesso. Quindi ci vuole il saldatore all'aria per forza. Deve controllare l'uscita bassa frequenza dell'integrato. Magari c'è un piedino staccato, niente di strano, capita, già l'hai visto in quei VU che ci avevi tu, che c'era un piedino staccato dalla fabbrica. Magari l'hanno salvato male o non mi ricaricato, non lo so. Comunque fatelo fare qualcosa, questo l'altro magari c'è la Luca. Non è facile farlo con quello. Neanche col fonte riesce a farlo per un casino, perché se ci passa il fonte si è male il pezzo in mano. Quando roba di microprocessori è un casino. No, beh, ci vuole l'apparecchiatura adatta, le lenti, non è così facile. Io per la microprocessura vedo un compagno e poi si va a cambiare, questo pezzo lo fa. Questo mi sa che è un problema, ho capito, scusa. Adesso non si vuole un problema perché è soldare le cose in miniatura. E ti ha fatto un po' cupo, Bacchi, non ho capito, scusami. Un po' di problema, adesso ti ha fatto un po' di tempo. Non si vuole un problema, non si vuole un problema. capito Bacchi, ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Bacchisio, ciao Luca, ciao Antonello, se di me bene, buonanotte e buonanotte anche a tutti, ok? Ciao a tutti. Ciao Tocci, ci sentiamo. Ciao Tore, buonasera, sono la signora, la domani si conclude. Bene Mesa, vai Luca. Ehi, ciao Tore, saluto alle prossime. Buonasera, buon tutto, ciao. Battisito, battisito. Allora costava un milione qualche cosa, quella apparecchiatura per la barca. Sì, i soldi mi sarebbe costato a metterci i soldi di tasca. No, i giapponesi usano la protezione al contrario. Sì, voglia. Non sapevo manco io che usassero la polizia. Vabbè, già ci siamo capito. Non riesci a dire, sono incattato oggi, Ma sai cosa mi dà fastidio? Che, come ho detto prima, è così. È come se tu mi vendi un apparecchio, fra. E ti mi dici, tu, qua io sto dando 100 euro. Mi ti è piaciuto. E poi i problemi sono miei, fra. Poi se a me mi dura un giorno, o mi dura un mese, mica è colpa tua, Infatti questo PC ha i suoi anni, avrà 10-12 anni, lo sa. Io gli ho parlato chiaro e tondo, mi sei piaciuto, capito? Ma infatti così, vabbè. Allora, l'usare te lo pongo a parte, va. Vuol dire che vedo un po' di risolverlo il problema. Io sto... io sono una persona che piace camminare a camminare, come ti cammino sempre, Non devo dare da nessuno. Vabbè, dai, farò un sacrificio, pazienza, per così. La prossima volta ci passerò due volte, anzi, metto le cose in chiaro, proprio in chiaro, senza stare lì a perdere tempo, perché guarda, sono disgustato, credo. Lo so, però è una persona che conosco, la conosco da anni. Vedo un po', c'è un telefonino, tanto lui ce l'ha rotto, io do il telefono, ciao, arrivederci, grazie. Sì, tu, di Dio, Luca, sai quanti, da internet, quanti 757 ci sono difettosi, nuovi. Lo compri bello tranquillo, vai a casa, lo provi, lo accendi, moduli, stai un'ora, due ore modulando, non ti accorgi che funziona la ventola, prende fuoco l'apparecchio dentro e ci hai buttato 300 euro. Ne sono capitati parecchi a Sassari così, capito, difettosi. Sono tutto apparecchiature che hanno un sacco di anni, quindi se lo compri a rischio tuo. Hai capito? Non è che puoi andare di portarglielo indietro, no, a quello lì. Tu ormai l'hai già preso, vaffanculo. La colpa è più che altro è nostra. Perché se compriamo la cosa, purtroppo non è che puoi andare per dire se questo qui è a Roma, andare a Roma, alla Roma, no? Purtroppo è più per lui a un certo punto. Non è mica colpa tua. Tu non c'entri proprio niente. Come è andato qualcosa con lui e basta, e quindi non sei pagare per quel motivo. Avanti, fra. Appunto per quello, io ho apparecchi, l'unica cosa che ho preso da internet, se ti ricordi bene, era il 140, ho detto Dio se funziona tutto bene, dopodiché mi sono stufato, ho detto io non posso stare, cioè con apparecchiature che sono vecchie di 30 anni, non so se per caso, sì, a me funziona per il momento bene, per dire passa un anno, due anni, tre anni, poi prende, si brucia, cosa me ne faccio, non ne faccio niente. A un certo punto ho preso e ho venduto quello e ho preso Iaiso, quello, il quadro in banda. C'era nuovo, grazie a Dio è perfetto, non ha nessun problema. Così ho tolto questi problemi da miei piedi. Lui dice, se tu prendi una... 4 e 140, un 140, un 680, ormai diciamo, la vita che hanno, non ti puoi, cioè, diciamo, sono cose di 30 anni, non ti puoi neanche fidare. Cosa ne sai, magari a quello che funziona va benissimo, a te dopo 4-5 mesi magari lo usi bene, dopodiché prendi, lo abbandoni per un po' di tempo, per dire un mese, due mesi, fai accenderlo e non si accende più. Il discorso è quello lì, perché capita, i contestatori partono, sono purtroppo roba vecchia e i componenti non li trovi, a meno che non vai su internet e trovi qualche scheda che stanno venendo a seconda mano, prendila e te la ordini e la cambi, naturalmente, hai capito? Ho dato la pulita a questa radio. Adesso ci faccio di tutto, adesso sono a casa. E ma sono accorto sia a casa, sei 9:10. Già tu qui mi intendi? Non sono a casa, non sono a casa, sono dall'altra parte. Segnale 8, radio 5, perfetta. E tu sei quasi 9 lo stesso, 8:30, dai. Luca 9:10 e Antonello 9:20. No, non c'è mai un'antenna, c'è l'antenna, un'antenna piccolina, capito, che c'avevo, tipo mini Grand Prix. No, non metto altro, non mi interessa. Chiaro, dai, tanto per salutare gli amici, la devi mettere un'antenna. Guarda, ma sai cosa sto usando? Ah, cosa vuoi? Trovate tutto dentro un ricatto e una parte lavata, e a casa c'è solo, sacciale c'è solo 4,40 e 4,30. Questo è il DAC con l'MB più 4, 2,20 senza alimentatore, appoggiato a un angolino, perché io ancora non ci abito, quindi quando vengo qua però almeno ascoltarvi, dai. Almeno so io che qua sotto ti ascolto. No, già mi ascoltano tutti, arrivo anche al Ghero se per quello non c'è problema. Se ti vengo, figurati tu, sono su nella zona di Terai, la zona più alta che c'è, capito? Vedo tutto, già ti mando il voto. Va bene, dai, che proprio lì la partita siamo qua. Ci sentiamo ragazzi. Comunque adesso è già migliorato, però qua non stavo uscendo sta radio perché era un pochino messa male, ferma, tappia il polvere dentro, ha pulito le valvole, adesso già va bene. Franco, ciao Luca, ciao di nuovo Antonello e chiunque fosse in ascolto sul canale 23. Statemi bene, buon fine serata a tutti, ciao. Ciao, Claudio, ciao Clara, alla prossima. Ciao. Ci sentiamo. Fa, come mi ascolti? Bene di segnale. Tutti un segnale decente, diciamo, la radio è un po' bassina, però ti ascolto bene. E va, che mi ascolti. Sto usando un saponetto. Ma io Santiago 8 ti sto arrivando con 4 watt. Cazzo, volati sì, Claudio. Santiago 7 sì. Figuratemi, hai tanto bene, perché lo vedo io, capito, vedo tutto seno, i socio, tutto vengo la roba sopra, sono più alto di casa, di Sassari, vabbè, va. Quasi quasi la mettiamo a matto, va a vedere se riproviamo a fare la torre. Se metti la matto vai, io sono sicuro che mi arrivi, sì, 9 è abbondante tu, figurati, con una mini Grand Prix appoggiata al muretto, fatti un gonto. Chiappa, infatti, figurati. È così chiaro, già va bene, hai trovato un'altra posizione tua. No, non è già una, ma è già zicata. Bellissima è a dire poco, fra poi già quando ci vediamo magari facciamo un salto. Già ci sentiamo, Luca Rie, punti dini, vi stavo ascoltando e Franco ha ragione, quando le cose sono anziane e sono già sfruttate e così, si sa quanti 4,40 ho comprato io nella mia vita e dopo 4-5 mesi li ho dovuti mandare a riparare. È così purtroppo, è così. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo che mi stanno chiamando. Ciao ciao. Ciao Cla, ciao ciao. Ciao Cla, ciao ciao. Ok, dai, ciao Claudio. Non proseguo di serata. Capito Luca? Ehi, vabbè. Ora ci vuoi fare? Purtroppo è andata così, pazienza, dai. Un attimino che riprendete voi, dai. Rimango qua in ascolto così mi sistemo una cosettina qua. Sistemare anche un telefono. Fai tranquillamente Lucia, non ti preoccupare, certo che ci mancherebbe altro. Tanto lì prima sto altri 5 minuti ancora, poi devo andare a cielo. Niente di più. Avanti Alessio, consiglio. Ha bisogno farli scaldare gli apparecchi. Più scaldano, più pompano. quando siamo fermi da parecchio tempo. Arrivavo molto più forte e beh, ci viene sento per dire, viene sento quando parlavo lì, a solo arrivavo forte che c'avevo proprio di fronte. L'unico punto che avevo disgraziato era Porto Torres, non riuscivo a, io di segnale 8 o 7 non arrivavo. Però a Centro Sardegna e poi la zona cioè in Spagna tutti i giorni ci parlavo, tutti i giorni, mattina e sera, virgola di due. E addirittura parlavo con Villacido, in provincia di Cagliari, Santiago 5, sono arrivato lì. E da lì te là invece andavamo lì come dalla macchina con il 550 con la Turbo 2001, arrivavo a Santiago 3, lui. In mare c'era di due, eravamo in tre che arrivavamo nella zona di Cagliari, io, Claudio e Andrea Maricomio e Angelo Delfino, tutti gli altri non ci arrivavamo qua con cane. Si vede ripetitori di sinnoli. Io per sorso sono tappato. Proprio tappato, perché mi è venuto un buco a me. Non c'ho più lo spazio per poter ricevere e trasmettere come si deve. Sono tappato da queste palazzine nuove che hanno costruito e che sono più alte del palazzo mio, se non tanto. Di due o tre piani addirittura, ma con un barro di Magibusu, ma ormai ce l'ho messo un metro e mezzo dal petto, perché se dovessi mettere 6 metri sarei spaventato mattina e sera e notte quando fa vento, quando fa temporale. E c'ho il parafulmine dell'hotel e poi quello del Conti, hai capito? È più dall'altra parte i tralicci dell'Enel, della 15.000, quindi è un bel pericoloso qua, quando fa temporale infatti ne faccio tutto io, ogni volta butto tutto il piede in terra e metto sotto cemento armato per sicurezza. Ehi, vabbè, purtroppo, quello che ho fatto visuale è un casino, ehi vabbè, però già ti ho detto, però ti ho sempre ascoltato così in basso, con il passo di cose bui e provincia di Nuoro, né in Ordino. Purtroppo la mia mamma mi ha venduto la casa e quindi si è dovuta trasferire qui. Se fosse stata ancora di là, sta tranquillo che era stata una cosa diversa. Avendo avuto per dire, un 680 lì, che l'avevo provato con una Grand Prix, tutta una fagosa era. Alghero 9:20 arrivavo, eccetera, eccetera. Figurati tu proprio lì al posto. C'erano le zone aperte. L'unico punto era Porto Torres, il resto era tutto bello tranquillo. Io parlavo con Giuseppe Santore di Crociera di Assoso, l'altro che è di, come diceva, Sia Francesco, che è a Senoli, arrivava a 9:20, mi arrivava a casa, mi figura di tu, a quel periodo lì. Sì, io mi ricordo di Alghero. Mi ricordo la fitta di Alghero, che era una montagnetta, con Crystal, e facevamo il film di Tom con tutta la ruota che c'era stata lì, la coprivamo tutta, io e Crystal, la coprivamo proprio, la millavamo. E Crystal, quando mi dicevo, Crystal non mi ha detto tutto perché c'era il bailame in Mumbai a Sassari, no? E allora c'erano barattini, era il bumbo dei barattini. E lui diceva, no, qua passa benissimo, lui passava benissimo, veniva qua, passava. Sapevo a questo punto dove sono adesso, lui, non lo so. E lui diceva, dai, da questo qua gli facciamo lì, quando vogliamo. E lui aveva, lui aveva. Io allora c'avevo un lineare a 500, c'avevo, a 500 watt. Sì, Crystal usciva forte, era una cosa allucinante la risotta, con una gran prima, io sono salito dove la ruini, era una cosa, non ci credevo neanche io, non ho visto la gran prima, un metro e mezzo di palo, una mini gran prima, arrivare così forte a casa era una cosa allucinante, però ho conosciuto la figlia, la maggior parte l'ho conosciuto tutti di Alghero. E quindi vi ho detto, l'unico era che pompava parecchio, ma usciva veramente forte, in tutti i posti. Altezza c'era, già lo sai anche tu, altezza e potenza, nel senso che mi sembra che usava di buccio, usava di buccio 31, e basta, 100 watt l'uscita usava, non usava di più, Esatto, ma se lo conoscevi hai visto com'era, però, era molto grande, se parlava con Santa Teresa di Gallunga, a bomba, parlava, noi parlavamo tutti allora con Santa Teresa di Gallunga, anche io parlavo da qua, con Santa Teresa di Gallunga, tranquillo, con la Corsica, facevamo molti, facevamo in questo periodo, facevamo l'ultimo con la Corsica, in diretta, sembravamo tutti vicini, sembravamo, c'era allora, Pietro Braccio di Ferro, di Apollo, ricordi a Pietro? Perfetta, era una bomba, era bomba. Sì, sì, diciamo che mi ricordo tutti. Con una Corsica ci parlava Vittorio, con quella coppietta, a parte Walter, che poi sono partiti di Corsica a conoscere, quello me lo ricordo benissimo. L'unico che non sentiva la Corsica ero io. Sentivo bassa, bassa, bassa, bassa, bassa. Aspetta, si chiamava Mattina, se non mi ricordo male, quella della Corsica. Parlava, se non mi ricordo male, ora ghiaccio la Bonifacio, una cosa del genere. Ma io parlavamo sempre con Andrese, e non so se te lo ricordi, adesso mi chiama che non c'è più, mi chiama il Moffa anche lui. Andrese, parlavamo con lui, parlavamo, ma era micidiale, era quello lì, era forte, c'era la... nella punta proprio più alta che c'era il ghiaccio, nella micidiale, arrivava fortissimo qua. Sì, è lui, se non la più alta che c'era il ghiaccio, io lo credo. Sembra c'è stato un break, avanti. No, perché mi sono sbagliato. Lì ci sono punti, io in Corsica ci sono, mi sono recato per fare alcuni impianti insieme a Coso. L'unica cosa che ho visto era un rianimatore con una direttiva. basta, non ho visto nient'altro. Figurati tu. Magari noi non conosciamo ancora la giornalista e comunque noi la conosciamo questo cambio. Ci aveva anche iniziato ad andare a trovarlo, ci ero mai andati, noi ci siamo, questo Andrì. E faccio uscire appunto dal nome Andrì, uscito. E Pietro, povero Pietro, perché di quello chiamava Fabrizio Andrì, lo chiamava. Abbiamo acceso la luce della cameretta, che era al buio, guarda. Non era bei tempi qui. Però dalla corsica non ho più sentito nessuno, la verità. E subito qualcuno entrava, adesso evidentemente anche lì hanno abbandonato tutto, senz'altro. Mi ricordo che stavo succedendo, l'unica cosa che avevo visto lì, quando sono arrivato in Corsica, dopo che mi sono sbarcato in rapporto, ho visto questa direttiva e basta, andando verso Ajaccio. Diciamo che già ci sono, perché nel certo corso, il 27, io sentiti che parlavano, però come parlano francese, che c'è tu? Parlano francese parlano e non riesci, però ci sono in Corsica, ma ce ne sono. E purtroppo non mi capisci, non è detto mai, non vale la pena neanche chiamarmi. Ah beh, comunque ce ne sono molti italiani, anche se italiani, tutti sono sapesi, sono la maggior parte sono tutti sardi, sono, hai conosciuto parecchi, devi stare tranquillo, la cosa è quella, se sgavi poco ti volevo con la macchina, ma qua a porta arriva uno. Nella valle c'è gente come si deve, addirittura mi ricordo che via Bonifacio, in quel paese lì c'è una via, tipo qua subito di Emanuele, tutta piena di ristoranti, destra, sinistra, destra. Ho detto, boh. E lui ha detto, come fate a lavorare qua? Dice, lavoriamo tutti, dice l'estate, non ci azzuffiamo né uno né l'altro, dice. Ma addirittura dentro e fuori mi pieno di, dice, noi lavoriamo solo col turismo. Buona cena, buon tutto, alle prossime. Stammi bene.